Visioni 21. Dopo un anno, perché veramente sono passati un anno e tre mesi da quando il precedente festival si è bloccato a tre giorni dall'inizio, dopo un anno ripartono le attività del progetto europeo Mapping, una mappa sull'estetica delle arti performative per la prima infanzia. Perché Visioni è un mapping festival. Credo che sia importante ribadire questo, perché tutta questa progettualità europea che noi abbiamo cercato di ispirare, ma che a sua volta ci ha ispirato in tutto il nostro percorso, è tesa a raccontare un elemento molto molto importante, ovvero i bambini piccolissimi hanno il diritto di essere considerati cittadini, i bambini piccoli hanno diritto all'arte e alla cultura, l'abbiamo detto tante volte, ma pensiamo che sia importantissimo ripeterlo e ripeterlo ancora. Visioni 21 ha una struttura anomala, è già il fatto di essere stato spostato in avanti dal consueto periodo di fine febbraio inizio marzo, fino adesso invece portato all'inizio di maggio, ma addirittura spezzato in due parti, perché quello che si realizzerà a maggio, dal 7 al 12 maggio, è solo la prima parte di Visioni. La seconda sarà fino a ottobre, stiamo ancora definendo le date, probabilmente dal 23 al 28 ottobre, ma stiamo ancora verificando esattamente quale possa essere il periodo migliore. Abbiamo fatto questo, l'abbiamo spezzato in due parti, quasi in maniera prudente, per guadagnare tempo, per cercare di arrivare in una situazione, e sembra che tutto questo possa accadere, in cui possiamo anche ritornare, almeno in parte, in presenza. L'idea di tornare in presenza per noi è qualcosa che soddisfa quel nostro desiderio di presenza che accompagna tutto lo spettacolo dal vivo. Lo spettacolo dal vivo senza la presenza davvero vive una dimensione di grande privazione, ma noi adesso vorremmo dare un segnale che è quello dell'importanza di cercare di ripartire, ovviamente nel rispetto delle norme di sicurezza, ma ripartire oggi, perché crediamo che sia importante che questo segnale venga dato con forza, senza attendere se possibile. È un po' aver ben presente che cos'è l'oggi, cercando di pensare anche al domani. Vorremmo testimoniare che siamo ancora in grado di far correre i pensieri, che siamo in grado di offrire progetti possibili, di non lasciare ancora quel vuoto che abbiamo paura che sia sempre un po' più difficile da riempire. Vorremmo mantenere vivi i desideri. E per questo abbiamo pensato a questo strano festival, un po' ibrido, tanto online e un po' in presenza. Un po' in presenza vuol dire che dei 28 spettacoli che verranno presentati in presenza, e ce ne saranno 13 per le famiglie, 5 per le scuole, e poi ci saranno questi 13 spettacoli per famiglie, sempre a pubblico molto ridotto, ma sempre un primo passo verso questa rincorsa del desiderio che stiamo cercando di portare avanti. E poi ci saranno 10 spettacoli dal vivo pensati per un gruppo di operatori che sarà ospite del festival. Sono 15 operatori, sono 14 produzioni per la primissima infanzia, di 12 compagnie, di cui parte italiane e parte europee. Vorrei subito mettere in luce l'importanza delle tre coproduzioni Mapping. Ci sono tre debutti italiani che fanno parte di questo progetto europeo, tre debutti nazionali. Uno è il debutto dello spettacolo Cornici, Ricordi in tre atti della Baracca, insieme a due spettacoli che provengono dall'estero, dai partner di Mapping. Uno è Ton in Ton del Toy House, teatro di Salisburgo, e il secondo invece è Tiebelé del teatro della Guimbard dal Belgio, che è uno dei partner storici di Mapping. Invece in presenza, dalla Spagna, Natanam del Date Danza. Poi ci saranno spettacoli di compagnie italiane. Siamo molto contenti delle produzioni che quest'anno parteciperanno a Visioni di compagnie italiane. Abbiamo Esercizi di Fantastica di Sosta Palmizzi, Link della compagnia ABC, ancora uno spettacolo di danza, Colos della compagnia TPO, che sono una compagnia che ha fatto dell'esperienza performativa digitale e quindi qui a cavallo davvero il pilastro della propria storia, poi Naturalis, Quattro Elementi come casa della compagnia Il Melarancio, e Le Avventure del Signor Bastoncino di Pandemonium Teatro, che si uniranno ad altri altre due produzioni della Baracca, sono due produzioni che dovevano debuttare al festival dell'anno scorso e che invece debutteranno al festival di quest'anno, Il costruttore di storie e La finestra di Mandela. Inoltre ci saranno altri due video, perché vorremmo mantenere alta il livello di collaborazione, di partecipazione di compagnie di tutto il mondo, e così abbiamo pensato di chiedere a due compagnie con le quali collaboriamo moltissimo di portarci in queste dimensioni online le loro produzioni. Abbiamo Sean Anders, Le altre bellezze, spettacolo di danza della compagnia di Sereno Ran, e l'altro che è invece Ciclo, nuova produzione della compagnia Ranua, che aveva partecipato al Festival 2018 con uno spettacolo di danza di, secondo noi, di altissimo livello. Oltre a questi avremo anche le performance di Al di là del vetro, che andranno nei nidi d'infanzia, nelle scuole d'infanzia, anche durante il festival, con questa produzione performativa che si chiama L'elefante e la ballerina. E poi c'è tutta la parte online, che è la parte dominante di questo festival, che però abbiamo cercato in un qualche modo di rendere originale, non sostitutiva,